Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Quante canzoni sono state dedicate alle donne? Ne ricordo una di Francesco Baccini che parlava delle donne italiane, ognuna in ogni zona d'Italia ha delle caratteristiche importanti. Sicuramente le donne italiane lavorano molto, lo sappiamo, magari non sono retribuite perché sono casalinghe, però sono molto lavoratrici e i dati sono ufficiali, sono quelli dell'OCSE. Di questo parliamo con il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo, bentrovato. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, noi parliamo di donne da maschi evidentemente, quindi siamo comunque dall'altra parte, nell'altra metà del cielo, però questi dati come li leggiamo? Li leggiamo come dati positivi oppure hanno anche dei risvolti negativi? Questa è una domanda molto importante, amico, perché sicuramente è un dato, quello diffuso dall'OCSE, in cui, come dice il titolo della notizia, le donne italiane hanno il primato planetario per essere considerate quelle che lavorano di più. Certamente è una notizia negativa, perché questo fa capire come la donna oggi ha un ruolo importantissimo, ma è anche tenuta a doversi veramente occupare di tutto, non solo del lavoro, ma appunto della casa, dei figli e tutto quello che ne può conseguire anche nel momento del bisogno con i parenti e i familiari. Ecco, credo che l'OCSE abbia fatto proprio dei conteggi sui minuti che vengono considerati lavoro, con delle differenze notevoli, non solo tra le donne italiane e le donne europee, ma anche nei confronti dei maschi. Certo, allora, il fatto che le donne italiane, come ho detto, ottengono un primato planetario, certamente è un dato che veramente deve essere importantissimo sotto questo punto di vista, ed è quello dell'impegno. Certamente rispetto ai maschi, le donne hanno una media di 326 minuti al giorno in più e si dedicano a che lavorano in più rispetto agli uomini. 326 certamente, minuti sono quasi 6 ore. Sono quasi 6 ore e ricordiamo come le donne sostanzialmente, oltre che a lavorare, si prendono cura appunto non solo della famiglia, ma fanno le spese, accudiscono i figli, ma anche hanno normalmente in carico i genitori anziani e a volte anche quelli dell'uomo. Normalmente l'uomo non è che in questa indagine non risulta impegnato, ma certamente risulta al di sotto rispetto alle donne di un bel po', con una media di circa 131 minuti rispetto appunto alle 326 delle donne. Certamente è un primato, quello che essendo planetario veramente merita grande rispetto, perché sappiamo che comunque nella società la donna svolge un ruolo molto importante e sostanzialmente anche nell'ambito, in un contesto familiare, un po' ruota tutto attorno alla donna. Eh sì, e consideriamo lavoro tutto, quindi quello eventualmente retribuito per chi ce l'ha, ma poi c'è anche tutto il lavoro domestico, insomma, che poi occupa buona parte e forse anche quello che chiede più energie. Certo, però conseguentemente a questo dato qua, dove la donna è impegnata, abbiamo chiaramente la disfatta della donna in termini occupazionali, perché purtroppo il tasso di occupazione della donna è solo del 47% rispetto ad una media OCSE del 60%. Abbiamo un tasso di fertilità tra i più bassi al mondo, 1,4 figli a testa, e quindi questo chiaramente diventa quasi una conseguenza di quello che è l'impegno che la donna dà rispetto a quello che poi lei deve sostanzialmente sacrificare. Certamente, ripeto, non possiamo fare un confronto con altri paesi come per esempio la Danimarca, dove sicuramente ne usciamo completamente distrutti, in quanto sappiamo che certi paesi come per esempio la Danimarca, la Scandinavia, invece hanno molta più sensibilità e c'è un dato che è proprio completamente inverso rispetto a quello che purtroppo in Italia primeggiamo, e ogni volta che si tratta di parlare di dati negativi ci sconforta dirlo, ma l'Italia è sempre ai primi posti delle classifiche. Per quanto riguarda poi la soddisfazione, diciamo, le nostre donne sono contente di tutta questa quantità di lavoro oppure sono, diciamo, tra virgolette, costrette a lavorare così tanto? purtroppo le donne non arrivano a un grado di soddisfazione sufficiente, perché certamente lavorare così tanto e sostenersi tutto questo peso sulle spalle non può certamente gratificare. Abbiamo un valore di circa 5,8 contro un 6, mentre la media OCSE si attesta quasi più verso un 7, un 6,7, quindi certamente la conseguenza non è quella che può comunque vedere le donne soddisfatte di essere così sbarcate di lavoro, perché poi alla fine tutto va anche a discapito del loro tempo libero, che magari sostanzialmente non ne hanno più, e potrebbe essere anche quello di dedicarsi un po' alla cura, ma soprattutto anche a degli hobby come può essere la palestra o altre cose che sostanzialmente oggi quasi non hanno più tempo. Dunque è anche questo uno specchio della società, evidentemente. Sappiamo poi, tra l'altro, che le donne lì dove hanno un lavoro sono mediamente retribuite meno dei maschi, quindi c'è anche questo ulteriore gap da ricordare. Certo, in ambito occupazionale le donne rispetto ai maschi devono ancora fare dei passi importanti, perché sostanzialmente sia le retribuzioni che il tasso di occupazione non sono assolutamente equiparate al dato maschile. Certamente questa cosa qui è anche comprensibile se andiamo ad analizzare questi dati che abbiamo appena fatto, perché certamente dovendosi sacrificare e suddividere in tante altre cose, certamente si può risultare qualche volta difficile poter fare tutto. Pensare che una donna deve sostenere tutta questa fatica, questo stress, questo peso, come vedo degli anziani, dei figli eccetera, è anche difficile pensare che come i maschi possa dedicare 10-12 ore al giorno per poter perseguire degli obiettivi professionali. Eh sì, e tutto questo ha un valore sociale altissimo, insomma, che se fosse quantificato, se fosse PIL, ma purtroppo non lo è, diciamo, è un PIL diverso, è un PIL di valore sociale, ma non ha una contropartita economica, ma qui forse allora saremmo davvero in testa alle classifiche positivamente. Certo, quando c'è da essere in testa alle classifiche ormai dobbiamo sempre cercare di estrapolare i dati peggiori, allora siamo sicuri che siamo in cima alle classifiche di tutto il mondo, non solo dell'Europa. Anche in questo senso non ci siamo smentiti oggi analizzando questi dati diffusi dall'OCSE. Viva le donne, allora, grazie alle nostre donne italiane che lavorano anche magari con poco riconoscimento, e qui facciamo un mea culpa noi maschietti. Con l'Adico ci ritroviamo settimana prossima con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.